si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Sabato 20 dicembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. (33) 180 94 94 per inviare un SMS. È il solito e noto cacciafotone at radiocittafugico.it per inviare una mail. Il sito di riferimento è www.cacciafotone.it. E oggi è la 100ª puntata di Caccia al fotone. Nella 100ª puntata di Caccia al fotone giochiamo in casa. Giochiamo in casa con i nostri matematici preferiti con l'H. Buongiorno Piero. Buongiorno Fabio. Al telefono abbiamo Piotr Rezerovich Silberbrams, detto meglio Piero Fabbri per gli amici. Piero, oggi parleremo di Rudi Matematici, questa rivista online e anche questo blog, poi ne parleremo meglio nella trasmissione, che parla di matematica creativa. Però all'inizio hai 100 parole iniziali per descrivere Rudi Matematici per tutti coloro che non l'hanno mai visitato. Provaci. Un problema che è diventato un foglio, il foglio che è diventato un volantino, il volantino che è diventato un giornalino aziendale, il giornalino che veniva distribuito via mail, la mail che diventava un sito, il sito che archiviava e diffondeva una rivista elettronica, la rivista che cresceva in rubriche, pagine e abbonati, le gym che ha affiliato rubriche su riviste cartacee di recensioni, di astronomia e infine sulla massima rivista italiana dell'educazione scientifica, poi un blog d'autore, due libri e un premio matematico per uno di essi, il tutto cercando di far ridere coi numeri da 10 anni. Piero, sapevo che eri un poeta, ma fino a questo punto? Mi sono preparato, eh. E ovviamente di tutto questo ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Adesso andiamoci ad ascoltare la prima musica, e sono gli Hey Jody. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si intitola Take a Walk. Bentornati a Caccia Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. 100ª puntata. Al telefono Piero Fabri, in arte Piotr Rezerovic Silver Brahms di Rudy Matematici. Ribongiorno Piero. Ribongiorno a te. Piero, prima di cominciare a parlare di Rudy Matematici e di matematica in generale, ti faccio sentire un Luttazzi d'annata. Pronto? Certo, molto volentieri. Professor Fantecentro, buonasera. Ciao ragazzi, come va? Ma, insomma, guardi, così così. Okay. Andava bene, poi è arrivata una lettera per lei che vorrei leggerle subito subito. C'è arrivata da poco, gliela leggiamo. Caro professor Fantecentro, sono un insegnante di matematica al liceo scientifico di Macerata. Ah. Le scrivo per dirle che lei ha rovinato i miei alunni. Lei, non faccia finta di niente. Ha rovinato i miei alunni, i quali credono che la matematica sia inutile. Ma è giusto, stia zitto e ascolti. La matematica è completamente inutile. Per cortesia. Stia a sentire cosa hanno fatto. Nell'ultimo compito in classe hanno consegnato il foglio bianco con scritto Disgustorama. Ma cosa ride? Cosmico. Ma che cosmico? Cosmico cosa? La domanda è: ha intenzione di continuare a rovinare i miei alunni? Piero, la matematica è inutile. Ma in realtà la domanda è molto più seria di quello che potrebbe sembrare. C'è chi sosteneva che la matematica, per essere veramente tale, doveva essere inutile. Lo sosteneva Godfrey Hardy all'inizio del Novecento, uno dei più grandi matematici inglesi. Di fatto no, non credo proprio che sia inutile, perché la matematica è soprattutto un linguaggio, una maniera che gli uomini hanno per raccontarci le cose cose che scoprono. E quindi non credo proprio che lo sia, nonostante la volontà di Hardy. Certo, è importante che non sia troppo legata alla volontà di avere necessariamente un'applicazione, perché non è questa la ragione per cui si fa matematica. Si fa matematica per cercare di comprendere il mondo e se stessi. E detta come va detta, la matematica è l'unico linguaggio universale di tutto il mondo. Perlomeno l'unico scoperto finora, sì. Non sappiamo se ce ne sono altri, ma di ripetibili e di realmente universali c'è solo lei. Senti Piero, allora parliamo di Rudy Matematici. Allora, prima di tutto ricordo il sito www.rudymatematici.com e prima di entrare all'interno di questo mondo esteso di Rudy Matematici, dimmi prima di tutto come nasce Rudy Matematici e quando nasce? Nasce davvero quasi esattamente 10 anni fa, nell'altro millennio, diciamo, per vantarci un po', nel 99, febbraio del 99, e come raccontavo nelle 100 parole, nasce quasi, non quasi, senza dubbio, per gioco. Il fondatore, che è Rudy D'Alembert, aveva proposto a dei suoi colleghi un piccolo gioco, un gioco di matematica, che si trova ancora nostro sito, volendolo cercare, ha avuto un po' di successo, quindi è stato stampato su un foglietto, il foglietto ha girato per la sua azienda, il foglietto è diventato un giornalino che veniva distribuito via mail a qualche amico. Quando poi abbiamo deciso di andare su rete e fare un sito che ospitasse il giornalino, che era già diventato una rivista a cadenza elettronica, la cosa è cresciuta al punto che adesso i lettori che ricevono Rudy Matematici sono un po' più di 2200, più quelli che naturalmente vengono a leggerci senza essere abbonati regolarmente, e quindi abbiamo raggiunto i 119 numeri. Sono una quantità di pagine di matematica ricreativa abbastanza notevole, ecco. Piero, tutto nasce effettivamente davanti a una birra, mi ricordo male? No, le birre sono un elemento fondamentale e caratterizzante della redazione, sì. Gli incontri in birreria sono il punto cruciale, perché sono effettivamente un momento di ricreazione perfetto, no? Quando uno sta rilassato con gli amici davanti a una birreria, cerca altre cose piacevoli da fare. E una di queste è divertirsi anche con la matematica, perché riteniamo che sia divertente, o che perlomeno possa esserlo se affrontato nella maniera giusta. Quindi mi metti in elenco tutti i tre autori di Rudy Matematici? I tre autori di Rudy Matematici sono Rudy D'Alembert, al secolo Rodolfo Clerico, che caratterizza le sue esternazioni dei problemi matematici con appunto una pipa. Poi c'è Francesca Ortensio, la fanciulla del gruppo, che come nickname a Alice Riddle, scimmiottando un po' così la Alice Liddle di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, che invece sigla con la birra. E poi ci sono io, Piotr, che c'era di Silverbrands. Chi invece è una coniglietta di Playboy, vero? sì, è vero, è vero. Ma sai com'è, ognuno deve caratterizzare in qualche maniera le proprie abitudini e le proprie preferenze e anche i vizi, soprattutto i vizi, perché i tre simboli rappresentano Bacco, Tabacco e Venere, quindi c'era solo Venere rimasta libera per me. Senti Piero, voi siete specializzati in parlare di matematica, ma soprattutto in fare quiz. Secondo te perché i quiz sono uno strumento così utilizzato per parlare di matematica? Credo dipenda dal fatto che c'è il senso della sfida, della competitività. Anche persino nei problemi scolastici la matematica può piacere o non piacere, può risultare noioso o meno a chi la studia, ma se c'è un problema c'è la voglia di risolverlo. Poi è possibile che non ci si riesca, però il non riuscirci dà sempre un piccolo senso di sconfitta e riuscirci un piccolo senso di vittoria. Quindi il avere la soddisfazione di affrontare un problema per via matematica, quindi soprattutto per via intellettuale, e risolverlo dà soddisfazione. Credo che sia questo l'elemento. Ti ricordi qualche quiz che ti è piaciuto molto, che è scritto su Rudy Matematici? Ce ne sono davvero tanti, alcuni sono diventati storici. Quello che ritorna quasi sempre riguarda semplicemente la numerazione di modellini di aeroplano. Ed è sintomatico, perché in realtà si tratta semplicemente di contare. Il problema, diceva, data una scatola di aeroplanini che ha dentro due serie di cifre da 0 a 9, un collezionista comincia a numerare tutti gli aeroplanini che fa, dal numero 1 in avanti. Conservando tutte le cifre che rimangono, però ne può numerare un certo numero, in realtà è un numero altissimo, e però questa idea del conteggio dei numeri, per quanto semplice, è piaciuta parecchio, e infatti l'abbiamo riproposto sia solo di matematici sia negli altri posti dove poi siamo finiti a scrivere. Senti, per una volta volevo vendicare tutti gli ascoltatori di Caccia al Fotone, visto che fino ad ora avete fatto i quiz per Caccia al Fotone, l'anno scorso un quiz a settimana, mentre da quest'anno è un quiz al mese. Questa volta ti voglio far fare un quiz direttamente da Paperino, e questo pezzo è tratto da un film animato della Disney che si chiama Matemagica. È un modo, tra virgolette, per spiegare la matematica in maniera ludica e divertente. Allora, io ti metto questo pezzo di Paperino, mettiamo un pezzo musicale, è il tempo del pezzo musicale per pensarci, e poi torniamo in studio. È un gioco da grandi il cui campo è costituito da due quadrati regolari e che si serve di tre sfere e di una serie infinita di angoli. In altre parole, il biliardo. Tu conosci il gioco, vero Paperino? No, Paperino, non è difficile. È solo questione di pratica. No, no, Paperino, in matematica non si tira mai a indovinare. È semplicissimo. Angolo naturale, 2. Posizione della stecca, 3,5. Quanto fa 3,5 meno 2? bentornati all'ascolto di Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fucico. Vi ricordo il numero di SMS che è il 33 180 94 94. Al telefono abbiamo ancora Piotr Rezerovic e Silver Brands, in arte Piero Fabbri. E sto ancora pensando. E stai ancora pensando. Hai il quiz nel polso. Qual era la soluzione del quiz? Ah beh, se dovessi dire semplicemente quanto fa 3.5 - 2, probabilmente riuscirei a rispondere, anche se con i seminterri non sempre è facile. In realtà il quiz di Paperino è veramente interessante, perché se ben ricordo il cartone animato in cui spiegava le leggi della simmetria per quanto riguarda gli angoli di incidenza e di riflessione che la biglia fa sulle sponde, è particolarmente interessante. Si narra che Newton fosse un grande giocatore di biliardo e che se ne fosse fatto fare uno ellittico, in maniera tale che mettendo la biglia su uno dei fuochi e tirando un colpo qualsiasi in qualsiasi direzione delle sponde, il rimbalzo facesse passare la palla sempre sull'altro fuoco. E questa è una caratteristica che funziona solo con le ellissi, per esempio, e è una maniera divertente per giocare con la geometria in questo caso. Senti, la modalità di parlare di matematica attraverso i film è una modalità molto nota. Abbiamo visto, o almeno alcuni di noi hanno visto, Il morto del matematico napoletano, che parla di Cacioppoli, e poi probabilmente il film più famoso che parla di matematica è A Beautiful Mind. C'è un pezzo di Beautiful Mind in cui si provano a spiegare le cosiddette dinamiche dominanti. Allora, io ho recuperato il pezzo del film e te lo faccio ascoltare, però in realtà non volevo parlare con te delle dinamiche dominanti quanto di un altro argomento. Adam Smith va rivisto. Ma di che cosa stai parlando? Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere. L'unico modo per tutti di scopare. Allora, indipendentemente dal fatto che le dinamiche dominanti vengono spiegate con una bionda, Piero, la maggior parte degli appassionati di matematico si nota che la matematica utilizzano per analizzare il mondo. Cioè, io sono appassionato di matematica, cerco di capire la matematica e poi, nella maggior parte dei casi, quando ho qualche problema, provo a analizzare in maniera logico-matematica la realtà che mi circonda. Secondo te è un problema mentale dei matematici oppure è un ragionamento che in teoria dovremmo fare tutti? Ma la mia sensazione è che è il modo abbastanza naturale di procedere. Non solo l'esempio di Nash con la strategia verso le bionde, che sono il perfetto simbolo di quello che tutti desideriamo, ma in realtà lo si trova soprattutto nell'indagine scientifica. Quando Einstein ha bisogno di una nuova geometria per la sua relatività, non deve costruirla, ha la fortuna di scoprire che esiste già, scoperta nel 1850 da Riemann. E questo è sorprendente se ci pensi. Una cosa che esiste già, che è già stata scoperta matematicamente, quindi è già posseduta dall'umanità, che non si sa che cosa serve, che si scopre dopo servire. Ma questo succede regolarmente. Per la teoria dei gruppi, quando è stata sviluppata verso la fine dell'Ottocento, si disse: questa è sicuramente la cosa più inutile mai creata, non ha di sicuro nessuna possibile applicazione. Adesso tutta la fisica moderna si basa sulla teoria dei gruppi. È vero. È proprio quello che dicevamo prima, è un linguaggio e delle regole. Quando scopri che esistono delle regole di linguaggio, è quasi inevitabile che prima o poi il linguaggio stesso lo utilizzi, e il linguaggio in questo caso è l'indagine scientifica. Senti Piero, torniamo a parlare di Rudy Matematici, perché Rudy Matematici non ha solamente un sito, rudimatematici.com, ma in realtà ne siete sbarcati direttamente sulle scienze. Avete un blog sulle scienze, avete una rubrica fissa sulle scienze. Parlaci di questa esperienza sulle scienze, perché è un'esperienza secondo me molto molto gratificante, perché insomma il massimo giornale scientifico italiano. Sì. Sì, ed è una cosa che davvero ci lusinga oltremodo. Non è tanto tempo che lo facciamo, lo facciamo, se non erro, da maggio, e facciamo insieme sia il blog d'autore, e anche questa è un'occasione per rimanere lusingati, perché ce ne sono abbastanza pochi e uno di questi è destinato a noi, e ben due pagine di rivista. È importante ricordare che sono pagine scherzose, facciamo un po' la parte dei giullari del sommo giornale di divulgazione italiana, non vorremmo mai uscire dal seminato. Però è un ruolo importante quello di cercare di far divertire con la matematica in un anfiteatro così importante come le scienze. E credo sia anche questo un successo dovuto alla rete, perché noi siamo diventati famosi quasi esclusivamente tramite la rete ed è le scienze che ci ha trovato lì, quindi è un doppio successo, non solo per noi ma anche per le nuove tecnologie. Senti, io lo so, ma più o meno la media di commenti che avete per ogni posto qual è? Beh, al momento non è elevatissimo, scendiamo dai 20 ai 40 direi, ma la cosa più importante è la qualità dei commenti e soprattutto la reazione che ci sono ai quiz che proponiamo sul giornale stesso. Comunque il direttore ha detto che per ora è contento e non ha intenzione di cacciarci via, quindi siamo contenti così anche noi. Poi c'è un commentatore stabile che è un commentatore che parla di scienze e cucina, un vostro ammiratore da sempre. In realtà è per lui che siamo arrivati lì, e lui ha parlato bene di noi alla direzione, Dario Bressanini è un lettore di RM da sempre e siamo onorati di ciò, perché il suo blog è veramente uno dei blog più seguiti d'Italia, forse quello scientifico più seguito d'Italia, ed è veramente meritevole. Senti, c'è un'altra esperienza, un'esperienza di un libro scritto, un libro che ha vinto addirittura il premio Peano, è vero? Sì, o perlomeno la sezione del premio Peano riservata a giovani autori, nonostante le nostre non più verde età e piccole case editrici. È il nostro primo libro, si intitola Rubi Simmetrie, ed è veramente un figlio del nostro sito, perché contiene sostanzialmente solo degli articoli estratti da Rubi Matematici, articoli storici o di tecnica matematica. Io ti voglio leggere un pezzo che sicuramente ti ricorderà qualcosa, pronto? Certo. Uno dei migliori aneddoti in merito riguarda la matematica statunitense Julia Robinson. Al momento di decidere sulla sua assunzione, i dirigenti dell'istituto le chiesero di lavorare una settimana registrando accuratamente le attività svolte, in modo che loro si potessero fare un'idea sul suo valore di candidata. Il rapporto che la Robinson presentò a fine settimana è rimasto famoso. Recitava: lunedì, 2 punti, provato a dimostrare teorema. Martedì, 2 punti, provato a dimostrare teorema. Mercoledì, 2 punti, provato a dimostrare teorema. Giovedì, 2 punti, provato a dimostrare teorema. Venerdì, teorema falso. E non è detto che le cose stiano sempre così. Sì. È la parte più divertente di Rudy Simmetria, possiamo dire, no? Sì, sì, in realtà fa parte appunto del compleanno del pezzo dedicato a Galois, in cui raccontavamo un po' come è difficile al mondo d'oggi a portare avanti una carriera accademica in matematica, proprio per la difficoltà di misurarlo. E questo aneddoto della Robinson, che peraltro è una delle più famose matematiche americane, che ha risolto uno dei problemi di Hilbert, è rimasto famoso. Ma è indicativo di quello che dicevamo prima: non si può cercare necessariamente con la volontà di misurare o di provare una risposta. E la matematica è difficile da questo punto di vista, ed è la cosa che più la rende affascinante, la sua imprevedibilità nella scoperta. Piero, un'ultima domanda prima di mettere l'ultimo pezzo musicale e poi tornare in studio. Quanto ti diverti da 1 a 10? 9 e tre quarti? 10 più? 10 più? Sforiamo dai limiti. Sì, è un'altra delle regole importanti, quella di violare le regole, se no non c'è divertimento. Allora Piero, mettiamo un'ultima musica, poi torniamo in studio e poi andiamo sulle considerazioni finali. A dopo. E siamo nella parte conclusiva di Caccia al Fotone. Al telefono sempre Piero Fabbri. Piero, per tutta la puntata abbiamo parlato di Rudy Matematici, della sua estensione sulle scienze, della sua estensione su Rudy Simmetrie. Che cosa ti aspetti per il futuro di Rudy Matematici, considerando il fatto che negli ultimi anni Rudy Matematici veramente ha spiccato il volo? Siccome per tutti questi anni non ci siamo aspettati nulla, io starò attentissimo a continuare a non attendermi nulla, nella speranza che la magia funzioni, che continuino a venire cose buone. No, è davvero difficile questa domanda. Siamo arrivati più in alto dei nostri sogni migliori, perché non credevamo di arrivare a scrivere due libri, non credevamo di avere un blog importante, di avere una rubrica sulle scienze. È anche difficile fare dei nuovi desideri, quindi stiamo ben attenti a non aspettarci nulla. Qualsiasi cosa ci diverta va bene. Io, Piero, mi espongo, io leggo Rudy Matematici dal 2001 addirittura e mi sono divertito dal 2001, e quando ho cominciato Caccia al Fotone ho pensato subito di chiamarvi per i quiz, perché secondo me eravate le persone più indicate a farle. E poi, insomma, da pochissimo siete addirittura sulle scienze, quindi sono veramente contento di quello che vi sta succedendo, e quindi lunga vita a Rudy Matematici, veramente. Ma lunga vita a Caccia al Fotone, che ci ha sempre portato fortuna. Piero, io ti saluto, saluto tutti i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Radio Città Fugico. Questa è la 100ª puntata, visto che la 100ª puntata l'abbiamo voluta passare in compagnia di Piero Fabbri. Io vi aspetto la prossima puntata, che probabilmente sarà a gennaio dopo le ferie, e quindi, come al solito, una buona scienza a tutti. Ciao Piero. Ciao Fabio, grazie. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'una, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi è portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Si contadino su cose di pazzo.